tutto. YouTube Social Village di Marta Cagnola. Un sacco di ospiti pazzeschi. Non posso che iniziare così questa puntata delle nostre due ore in diretta con Radio 24, l'ora di RadioTube Social Village, l'ora di RadioTube Social Network. Si parlerà molto di musica nella prima ora, ma sentirete voci straordinarie. Beh, uno dei miei cantautori preferiti che ci viene a trovare, se non lo conoscete dovete rimanere con lui e ascoltarlo, perché Colapesce ha fatto un disco pazzesco. Però parleremo anche di Francesco Guccini. Ieri siamo andati a trovarlo, abbiamo degli audio veramente straordinari, Francesco Guccini, e scopriremo perché. E poi parleremo anche del ritorno di un personaggio amatissimo, Asterix. Torna Asterix, come? Vabbè, lo scopriamo nella prima ora di RadioTube Social Village. Ma partiamo subito con la musica. Vabbè, allora, io gli ospiti li ho già anticipati su Twitter e su Instagram, chiocciola Marta Cagnola è il mio account. Ci sono sempre i numeri per contattarci via WhatsApp, via SMS, 349-238-6666. Abbiamo subito un pezzo pazzesco e un ospite che io adoro qua in studio con noi. Vabbè, cominciamo così. Ci volevano proprio i Grateful Dead per presentare questo straordinario personaggio. Allora, di lui qualcuno ha detto che voleva fare l'organizzatore, ma voleva fare anche l'artista e voleva fare anche il pubblico dei concerti. Insomma, tutto insieme. Lui è uno dei più grandi organizzatori di concerti italiani, ma soprattutto un uomo che ha una miniera di aneddoti, di racconti, e finalmente li ha messi tutti insieme in un libro che si intitola No Pasta, No Show. Claudio Trotta, ciao Claudio. Buongiorno a tutti quanti. Devo dire che la presentazione potrebbe far risultarmi piuttosto egocentrico, ma in realtà lo però, sono, sì, lo dico. Ma non è una questione di essere egocentrico, è una questione di amare talmente tanto la musica, l'organizzazione di un concerto, che sia soprattutto un momento di gioia per le persone, perché è questo che esce soprattutto dal tuo libro. Sì, sicuramente gli aneddoti di una quantità di musicisti che non vi potete neanche immaginare, ma il piacere di organizzare degli eventi da cui le persone possano uscire felici. Quello che a cui ho pensato di più mentre scrivevo questo libro è il piacere della vita. La vita è un dono meraviglioso. Il mio lavoro, la mia vita, le coincidenze mi hanno portato ad esprimermi in un mondo, quello dello spettacolo, abbastanza variegato, abbastanza ricco, e che oggettivamente ti permette un linguaggio universale. La musica, in particolar modo, è un linguaggio universale. Non sapendo suonare nulla, nel libro c'è un capitolo che si chiama Non sapevo... Io non so manco suonare il campanello. Esatto, non sapendo suonare nulla, ma avendo nei cromosomi della mia famiglia lo spettacolo. Mio nonno Radames era un impresario d'opera, mia nonna era una soprano, mia mamma, che è viva, era una soubrette contorsionista, i genitori di mia mamma erano attori di avanspettacolo, la sorella gemella di mio papà diplomata in arpa, ho due cugini, due secondi cugini che sono concertisti di pianoforte. Avendo questo nel sangue, all'inizio pensavo di voler fare il giornalista, ho scritto articoli. Hai fatto tantissima radio, peraltro. Ho fatto 3 anni e mezzo di radio, quando le radio erano libere, non commerciali, e ho organizzato i primi concerti. Poi nel 79 l'inizio proprio con Barley, i biglietti costavano 2000 lire, c'erano stati anni di chiusura degli artisti internazionali perché c'erano gli scontri ai concerti, le Zeppelin, di Santana, il processo a Francesco De Gregori a Palalido. C'era tanta politica che entrava nella musica nel modo sbagliato. Assolutamente, fra l'altro viene abbastanza da sorridere a pensare che si protestava per non pagare 2000 lire, un euro. Pensare che adesso si pagano dei prezzi dei biglietti spropositati, allora si protestava per quei prezzi, ogni tanto mi fa un po' sorridere. Tra l'altro, una delle cose che tu dici nel tuo libro è che a te dispiace che i concerti adesso siano così cari perché non ci vanno a vedere un artista, soprattutto i fan dell'artista, ma soprattutto quelli che si possono permettere il biglietto. Sì, una volta, fino a pochi anni fa, nei posti in piedi, sto parlando dei posti in piedi o in un parterre di un palazzo o in un prato di uno stadio o in un pratone di un aeroporto dove facciamo concerti o quant'altro, nei posti più vicini all'artista ci andava chi? Ci andava il fan. Certo. Che la conquista di questo posto passava attraverso il fatto di comprare il biglietto magari un anno prima, di accamparsi ore prima, se non addirittura giorni prima, di faticare ancora più di quanto già sia andare a un concerto, perché andare a un concerto è una fatica psicofisica non è differente. Negli ultimi due anni, ma soprattutto nell'ultimo, è successo un fenomeno che per me è decisamente inquietante, cioè la maggior parte dei posti di questa natura sono riservati a chi spende di più. Quindi posso andare in quei posti e mi faccio il selfie e faccio vedere al mondo che io sono andato a quell'evento. Vado a vedere, invece non si va a vedere, si va a sentire. A proposito dei selfie, a te che impressione fa? Trovo che eccedere in qualsiasi cosa fa sempre male, cioè oggettivamente si perde molto. Innanzitutto ci si agita di meno. Nel momento in cui tu sei tutto il tempo col tuo smartphone davanti, non sei più con gli altri. Pretendi di esserlo di più perché con lo smartphone pensi di comunicarlo ad altri. Ed è quello che in piccola parte faccio io quando faccio dei filmati su delle cose che mi piacciono, pensando alla gente che non è potuta venire, gli faccio vedere qualcosa. Certo. Ma finisce lì. Il tuo libro, Claudio, è una sorta anche di enciclopedia della musica degli ultimi decenni. Però inevitabilmente uno scorre il libro e aspetta il momento in cui parli di Bruce Springsteen, perché tu sei un po' ritenuto il tramite italiano, l'emanazione italiana del boss. Però tutto comincia con un gelato, una cena, cioè li fai diventare tutte persone normali. Nel libro io cerco di raccontare la bellezza delle persone. Le persone qualsiasi, io parlo di uno spazzino, parlo di un tecnico della batteria e anche gli artisti, perché gli artisti in finale sono persone qualsiasi. Certo, alcuni hanno delle abitudini un po' particolari e infatti ci sono molti aneddoti davvero gustosi. Uno ha dato il titolo al libro, perché sì, non passano show? Il titolo si chiama così perché nel 79 uno dei primi artisti con cui ho lavorato, David Bromberg, con lui prima dei concerti andavamo sempre a mangiare, e mangiavamo tantissimo, no pasta no show, cioè che vuole dire o si mangia oppure non si suona. Il discorso di Bruce che dicevi prima, in effetti il capitolo di Bruce ho cercato di raccontare com'è andata, cioè io il primo contatto che ho avuto con Bruce è stato andando a vedere il suo concerto a Zurigo e non ero un suo fan. Il secondo è stato lavorando con il grande Franco Mamone, che è il padre di tutti noi organizzatori, e a San Siro, il grandissimo concerto, io non l'ho neanche visto. Perché eri fuori a controllare. Ero fuori in una posizione da coglione, in giro con la bicicletta. e poi ho raccontato episodi invece di come il rapporto si è sviluppato. Per concludere, intanto fammi ricordare che domani lo presenti a Roma, domani sì, pomeriggio. Sì, domani io sto facendo una cosa, ironicamente, ovviamente, perché non vorrei che qualcuno mi prenda sul serio, chiamata Trotta on Tour. Beh, per la prima volta, dopo 40 anni di organizzazione di brava, concerti. Hai colto. Sto facendo questo giro per l'Italia, che in realtà mi porterà almeno in una trentina di città diverse, dove facciamo dei veri e propri happening, dove c'è un attore, e ne ho tanti di amici, Giuseppe Battiston, Gian Piero Ingrassia, che leggono dei brani, un giornalista o un opinion leader che con me interagisce parlando del libro, a Roma sarà Ernesto Assante, a Roma sarà Giuseppe Battiston, l'attore, degli ospiti, a Roma Niccolò Fabi, e poi faccio suonare, scegliendolo io, un artista nuovo, italiano, giovane, della zona. A Roma lo facciamo in via Appia Nuova, Feltrinelli, alle 5 del pomeriggio di domenica, venite perché alla fine si brinda pure, comprate il libro e io ve lo dedico. grazie a Claudio Trotta. He has his own fans, dice Bruce Springsteen. Ha un sacco di fan Claudio Trotta. Grazie. No pasta no show. No pasta no show. Radio Tube Social Village. Adesso cambiamo completamente genere e argomento. E facciamo quel cazzo che ci pare, caro. Che non è il titolo di una canzone. Dopo non venirmi a chiedere, cantami il cazzo che ci pare, cantami il cazzo che ci pare. Non è il titolo di questa canzone si chiama Venezia. Allora, avete riconosciuto la voce di Francesco Guccini? Queste cose succedevano in un luogo magico di Bologna, un luogo che era chiuso da molti anni, che è l'Osteria delle Dame. Allora, l'Osteria delle Dame era un luogo magico in cui Francesco Guccini e i suoi amici da giovani si ritrovavano, suonavano, mangiavano, bevevano, ma soprattutto suonavano. Allora, le notizie sono due. Una, che questa osteria, che è al numero 2 di Vicolo delle Dame a Bologna, riaprirà dopo 32 anni a partire dal 14 novembre. Ma l'altra notizia è che il 3 novembre esce l'Osteria delle Dame, che è una raccolta di concerti inediti registrati proprio nei primi anni 80 lì in quella mitica osteria bolognese. Ieri siamo stati a Bologna, abbiamo fatto una gita, abbiamo incontrato proprio Francesco Guccini, che dopo tanti anni è sceso in questo antro, in questa osteria che si trova veramente in nel sottosuolo, è un luogo magico. Lui era molto, molto, molto emozionato. Quando sono venuto giù, dopo 47 anni, mi sono anche commosso. Ho ricordato tutta la gente che c'era, molti dei quali non ci sono più. Tanti amici che se ne sono andati prima del tempo. Perché quando c'era un altro prima che è venuto giù, che frequentava questa osteria, ha detto che bello vedersi così tanti come eravamo una volta e non siamo a un funerale. Che a volte succede, spesso, sì. Allora eravamo tutti giovani, era un bel periodo. Anche Bologna era molto diversa. Bologna è una città che non andava a letto. Tutte le ragazze di quel periodo, dicevo, tutte bellissime. Come solo a 20 anni si può essere bellissime. E tanti amici, gli amici di carte, Giulio. E uno che non c'è mai riuscito di battere, aveva più culo che anima. E che giocavamo a volte fino alle 2, alle 3. Anche oltre del mattino, osteria chiusa, non ci siamo mai giocati neanche un caffè. Venezia è anche un sogno. Era emozionatissimo, ma è sempre bello sentir parlare Francesco Guccini perché è un abilissimo narratore, non vuole più esibirsi in pubblico per tante ragioni, ma il suo patrimonio musicale, intanto anche il suo patrimonio di narratore, perché è uscito recentemente con un nuovo libro. Chi c'era a Bologna? C'era ad esempio il critico musicale del Giornale, uno dei più amati amici di RadioTube, Paolo Giordano. Ciao Paolo! Eccomi, ciao Marta, ciao a tutti. Allora, noi eravamo nello stesso posto ieri e non ci siamo visti perché veramente l'osteria è un posto buissimo, piccolino. C'è questo pilone centrale è che vero. Si separava. Esatto, anche perché non c'erano tantissimi giornalisti ieri, ma c'erano tanti amici, come diceva Francesco Guccini, era molto emozionato. Sì, era molto emozionato e lo è stato per tutto il tempo, non soltanto parlando dell'epoca, ma era proprio emozionato. Io ero di fronte a lui e vedevo gli occhi piuttosto commossi. Vedevo gli occhi commossi, sentivo gli amici che erano di fianco a me, i suoi amici che erano di fianco a me, commentare, fare il controcanto di tutte le sue battute. Quindi ho in qualche modo partecipato a una serata ideale dell'Osteria delle Dame nel 1974. Devo dire che in questi casi ti viene veramente quasi una nostalgia di un tempo che vabbè, non abbiamo vissuto, ma un po' di invidia anche, chissà che meraviglia. Ma sì, anche perché io credo che lì non ci fosse null'altro che ciò che stavano facendo. Non so come dire, non c'era il cellulare perché non prendeva il cellulare, non c'era wifi. essendo praticamente una cantina, non poteva di sicuro prendere alcun segnale, e si incontravano più o meno sempre le stesse persone, quegli amici che erano cresciuti, che poi sarebbero cresciuti ancora dopo, con uno che all'inizio magari no, ma che quando sono stati registrati quei concerti, quindi 82, 83, 84, era già una superstar. Sì. Perché Guccini in quel periodo lì, non so, come se ci fosse la possibilità di andare in una cantina a bere Lambrusco e giocare a carte con Mick Jagger, oppure con qualche super top, con Ligabue, con Vasco. Ecco. Parliamo d'Italia, ecco. E quindi era senza dubbio un contesto particolare, e non solo, ma non so come dire, cioè nessuno lo sapeva, pochissimi lo sapevano, io non lo sapevo, non sono uscite questo spaccato di realtà di Guccini a sorpresa per me. Non so, tu lo sapevi? Guarda, io ho studiato dopo che ho letto appunto il libro, esatto, che è stato allegato anche a questi cofanetti. Paolo, secondo te che senso ha ascoltare, comprare, magari regalare, visto che siamo già quasi in zona Natale, questa musica, queste registrazioni d'epoca? Beh, senz'altro sono concerti, io li ho ascoltati quasi per intero, sono concerti che hanno una magia particolare, perché non sono il concerto tipico dell'artista che sale sul palco e fa il suo set, sono dialoghi con il pubblico a un centimetro dal microfono del cantante. Con le battute, con Bonvi che chiede fa le richieste ciuff per avere la locomotiva e cose del genere, quindi insomma piuttosto particolare, e sono uno spaccato, un frammento di realtà assolutamente sconosciuto per una quantità di pubblico oggi giovanissimo, che non puoi avere l'idea di, come magari non ce l'avevo neanche loro, non ce l'ho neanche io, ma di quale magia ci fosse in questi concerti con il cantante seduto sulla seggiola in un localino piccolissimo nel quale tutti fumavano, non c'era la ventola e quindi dopo un po' non ci si vedeva neanche più, tanto fumo c'era, l'ha detto Guccini, e cantando canzoni molto, molto belle, canzoni che hanno segnato comunque in un modo o nell'altro la storia della musica d'autore italiana. Vero, verissimo. Grazie a Paolo Giordano per essere stato con noi. Ciao Paolo, alla prossima. Grazie a voi, ciao Marta, ciao a tutti. Ciao Paolo, noi adesso partiamo per un viaggio, andiamo. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. L'Italia, anche per questo prodotto, ha il primato sopra tutto l'orbe, maggiormente nell'agro venafrano e in quella contrada che produce l'olio liciniano, dal quale specialmente ha tratto tanta rinomanza l'uliva licinia. Queste sono le parole con le quali Plinio il Vecchio decanta l'olio di venafro nell'Alto Molise, descrivendolo come il migliore in assoluto. E anche questa settimana siamo pronti per partire. Avete già sentito qualche istante della nostra radioguida sul sito di Radio 24 e anche sul sito del Touring Club? Dove ci porta questa settimana la nostra radioguida? Dove ci porta questa settimana la nostra Annarita D'Ambrosio? Glielo chiediamo subito. Ciao Annarita. Ciao Marta. Dove andiamo? Andiamo in posti straordinari, perché l'iniziativa riguarda l'Italia intera. La nostra radioguida fa un focus sul Molise, che è una regione bellissima e poco battuta dal turismo, dobbiamo dire la verissimo, verità. Però io ho degli amici molisani e ogni volta mi dicono meraviglie e prima o poi ci andrò. Però parliamo di un'iniziativa particolare che si svolge domani, la Domenica dell'Olio. Sai quelle cose straordinarie, perché tutti noi da bambini abbiamo mangiato pane e olio, io devo dire la verità, e io sono napoletana, il pane napoletano straordinario con l'olio quello buono. Ne parliamo con un ospite che di olio ne sa tanto. Lo ringraziamo, Enrico Lupi, presidente dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio. Salve. Buonasera a tutti voi. Buonasera. Presidente, allora 332 soci, tutti enti pubblici, esatto. Perché voi fate una promozione importante, la tutela del territorio olivicolo italiano. Noi facciamo la promozione dell'extravergine in simbiosi inscindibile con il territorio olivicolo, con l'albero dell'olivo e quindi per la cultura dell'alimentazione sana, genuina, su un prodotto di eccellenza quale l'olio extravergine. Ecco, e domani si celebra la prima giornata nazionale della camminata tra gli olivi, per un turismo particolare, no? Ma io credo che sia un'ottima intuizione, perché camminata tra gli ulivi vuol dire paesaggio, ambiente, territorio, questo filo d'olio ideale, conoscendo gli alberi d'ulivo, sembra scontato che l'olio provenga dalle olive e quindi dagli alberi, ma non tutti i consumatori cittadini, come dire, hanno dimestichezza con il prodotto e l'agricoltura, quindi il target è la famiglia e conoscendo, ripeto, territori misconosciuti, perché sono gli addetti ai lavori che vanno a raccogliere le olive. Certo. In campagna portiamo tutte le persone di buona volontà che hanno piacere a conoscere questi itinerari splendidi, naturalmente intervallati da frantoi, degustazioni, chiesette, insomma bellezze architettoniche, quello che è il territorio. Presidente, offre. Io ho letto, ogni comune, sono 120 appartenenti, esatto, a 18 regioni, ha selezionato un tragitto dai 2, esatto, ai 5 chilometri, esatto, proprio tra gli olivi, e questo tragitto poi si conclude in un frantoio, quindi ci sono poi anche delle spiegazioni, no, su come si... Ma evidentemente siamo in piena raccolta, quindi come dire, siamo proprio nel momento più favorevole, perché addirittura qualcuno giocando raccoglierà anche le olive nel percorso, per dire. Presidente, noi le auguriamo tutto il successo di cui lei parla. Domani la prima giornata nazionale della camminata tra gli olivi, grazie al presidente dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, Enrico Lupi. Grazie a voi, vi aspettiamo ovunque voi siate. Grazie. Grazie. Marta, volevo dirti una cosa. Noi facciamo il focus sul Molise, sì, che abbiamo detto prima, segnaliamo, perché ci sono 5 itinerari in Molise, proprio relativi alla giornata di domani, in posti bellissimi. Bisogna andarci, scaricare la radioguida di Radio 24 e del Touring Club e poi andarci. E poi tutti in Molise. Grazie Anna Rita, al prossimo sabato. Grazie a voi. Radio Tube Social Village. C'è una luna di ghiaccio, una sirena sulla provinciale. Questo freddo mi spacca le ossa, non mi fa pensare più. Anche oggi troppi carboidrati da dover smaltire. Forse tempo la musica d'autore era punitiva, ci si annoiava tantissimo, era il più possibile triste. Adesso finalmente abbiamo aperto delle nuove porte. Lui è uno dei miei preferiti, io lo adoro. Quando mi hanno detto esce un nuovo disco, io sono stata molto molto contenta, e dopo l'affermazione esce un nuovo disco, la mia domanda, portatemelo in radio appena è possibile, e finalmente qua Radio Tube con la Pesce. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Bravissimo, lui è bravissimo, fidatevi, sì, fidatevi, no, perché lui è veramente, no, no, beh, ragazzi. A tutti, ma... No, allora, gli ascoltatori ascoltatori lo sanno, intanto che io scelgo bene, okay, perché mica invito quelli che non mi piacciono. E poi con la pesce, allora io lo so che moltissimi ascoltatori si stanno chiedendo da dove viene questo nome, lo so che te l'hanno chiesto tutti, due parole però diciamolo, sì, un'origine nobilissima. Nobilissima perché è una vecchia leggenda siciliana del periodo federiciano, per essere più esatti. Che la faccio breve, se no annoiamo gli ascoltatori. Beh, così vanno a cercarsela, a leggersela. Esatto, eh? Sto ragazzo che ha le stesse capacità di un pesce, e praticamente alla fine della leggenda, sacrifica la propria vita per reggere la Sicilia da sotto il mare. Ho fatto una adesso a questo punto sintesi. Non ti chiederò se quello è il tuo obiettivo, perché è un po' ambizioso. Quando leggo nella cartella stampa il nuovo album di Colapesce dal programmatico titolo di Infedele, mi chiedo: programmatico in che senso? Cioè, hai preso delle decisioni in merito? No, perché è preoccupante. No, non l'ho scritta io, quindi posso andare a discolpa. No, dai, scherzi a parte, Infedele a cosa? Ma Infedele in questo caso ha più significati. In primis sicuramente al fatto di sottolineare con più forza il fatto che non appartengo poi alla fine a nessun tipo di parrocchia o di genere in particolare o di nicchia. Non mi piace essere racchiuso in un'unica cosa, perché credo di avere, appunto, come dicevi tu prima, c'è molta varietà, poi anche infedele, no, a me stesso, perché veramente si passa dall'elettronica al fado portoghese, alla musica brasiliana, al cantautorato italiano. Ci sono veramente tante influenze in questo disco. Mi ha stupito il fatto che tu abbia raccontato di una canzone nata praticamente in 3 anni. Ci mettevi un mattoncino ogni tanto. Come si fa ad avere un'ispirazione, poi metterla via, e poi un altro mattoncino, e poi metterla via? È proprio tutti attraverso, tra l'altro. Sì. Che avevo scritto avevo gli accordi della strofa, poi ho scritto il ritornello, poi ho scritto varie strofe ma non mi ha mai convinto del tutto, quindi la posticipavo. Però non è sempre così, in realtà poi ci sono delle canzoni tipo Pantalica, che è la prima traccia del disco, che ho scritto in mezz'ora. Quindi Pantalica, siamo ancora in Sicilia? Pantalica in Sicilia è una necropoli vicino al mio paese di origine, che si chiama Solarino, dove c'è questo canyon gigante di 8 km circa, dove scorre in mezzo un fiume, che è il fiume Anapo, che è stupendo, c'è una vegetazione incredibile ed è un posto veramente mistico. E praticamente lo frequento da sempre, da quando sono bambino. Vi invito gli ascoltatori a visitare questo, che tra l'altro da qualche anno è pure patrimonio dell'UNESCO. Che splendore, immaginazione, viaggi. C'è una traccia che mi ha fatto molto divertire, riflettere e pensare, che è questa Maometto a Milano. Allora, dopo un marziano a Roma, dopo le scope che volano in Piazza del Duomo di Miracolo a Milano, ancora una strana immagine. Ti sei immaginato cosa? Allora, in generale non adoro spiegare molto le canzoni, perché però è giusto questa, che ognuno deve farsi il suo percorso, però ti posso dire un po' la genesi, ti posso raccontare la genesi. Volevo scrivere delle strofe, l'idea iniziale era di scrivere delle strofe completamente diverse e esotiche. Tra l'altro la mia ispirazione, posso dire, era Onda su Onda di Bruno Lauzi. Ho letto che è una delle tue canzoni preferite. Sì, l'adoro. Secondo me è una delle canzoni italiane. E questo più dice molto di te, del fatto che di questa leggerezza, gioia, sì, che però forse nasconde quella leggerezza difficile da ottenere. Sì, sì, sì, sì, quella leggerezza calviniana, ecco, chiamiamola così, che non è banale poi del tutto. Ci sono delle frasi in quella canzone come il naufragio mi ha dato la felicità che tu non mi hai dato. Insomma, secondo me ci sono delle immagini veramente stupende. Quindi la mia idea era di fare delle strofe più esotiche, e poi invece nel ritornello si crea questo crash con Maometto forse è nato a Milano, aperitivo più Negroni sbagliato. Insomma, giocare sul fatto, su questo mondo possibile, no? Giocare sui mondi possibili, e questo qui mi sembrava abbastanza forte, efficace, spericolato sì. Infatti il mio manager, quando l'ha sentita, poi si preoccupava più che altro della mia incolumità, delle reazioni durante i live. Beh, magari, non è semplice, non è un'immagine, non è sì, molto semplice, però in realtà è funzionale poi secondo me alla canzone, e raccontare anche una certa Milano, che non è una critica per forza, perché io adoro Milano. Anni 60, hai citato Bruno Lauzi, c'è qualcosa degli anni 60, c'è anche qualcosa degli anni 80, c'è qualcosa di vintage? C'è tutto, tutta la mia passione per la musica, è proprio un omaggio questo disco alla musica, un amore per la canzone sconfinato che va veramente dalla musica di autore, come Enzo Spesi per esempio. La produzione della voce può ricordare un po' alcune atmosfere dei dischi di Piero Ciampi, per esempio, che è un altro mio grande... Poi all'opposto ci sono brani come Compleanno, invece, che ha quasi un'elettronica da club. Quindi, però in entrambi i casi c'è la forma canzone che vince, diciamo, su tutto, secondo me. Mi interessava sottolineare questa mia essere diverso. Io non ho tatuaggi, però dopo che l'ho sentita mi tatuerei Decadenza e Panna, perché Decadenza e Panna mi sembra. Grazie. Decadenza e Panna è un'immagine forte, l'avevo scritta pensata per una voce femminile inizialmente, poi ho deciso di tenerla per me, è un pezzo particolare, quello è nato, a differenza di Attraverso, l'ho scritto di getto, come se proprio con un'urgenza di dire delle cose. In parte autobiografico, e poi mi piaceva molto questa idea della decadenza e panna, che sono due cose lontanissime. Eppure, vabbè, non vi dico niente, ascoltatelo. Okay. C'è una cosa molto divertente che ti riguarda e che io avevo letto tempo fa e che effettivamente si ritrova anche nella tua bio, non me lo ricordavo male, che Francesco Pacifico su Will ti aveva definito una specie di David Byrne siciliano. Io me la ricordavo, però non ero sicura, però è vero. Tra l'altro non so se Francesco Pacifico è a conoscenza, ma è il mio idolo praticamente, David Byrne. E quindi beh, ragazzi, per me è una grandissima responsabilità. Beh, intanto lui ci ha visto giusto, che evidentemente ha letto qualcosa okay. In te di... Sì, forse per il mio essere eclettico. Vabbè, molto forte come immagine, però... ci aspettiamo, questo è altro. Grande attesa per il tuo album, l'album arriva adesso, ovviamente, allora grande attesa per il tour. Così funziona. Sì. E che farai? Tour... Perché leggo tutto nuovo. Tutto nuovo, allora il tour parte da gennaio, prima faremo un piccolo tour nei negozi di musica indipendente, no? In un po' di città in Italia, e faremo questo lungo tour di presentazione, e poi da gennaio invece partirà il tour vero e proprio nei teatri, sarà uno spettacolo spero bello, quindi vi invito. Più decadenza, più panna per tutti. Esatto. Infedele con la Pesce, sono molto contenta di averla avuto a RadioTube. Ascoltatelo, non fate un favore a me, fate un favore a voi stessi. Grazie a te. Ho fatto come volevo, erano strade diroccate, piene di buttane, e va bene, sì va bene, che buon odore di profumi chimici, e quanti accenti esotici, mica male. Siamo davvero tutti simili, sogniamo di essere compresi, diffusi, smaterializzati. Ti attraverso. diverso, sempre con la pesce, a me piace un sacco. Poi lo sapete, a volte noi ci vediamo a lungo e poi cominciano a parlarne tutti gli altri, e poi cominciano a sentirsi questi pezzi anche nelle altre radio. Insomma, ascoltate con la pesce. Adesso il traffico, mi scuso col collega, con la collega, perché c'è un pochino di ritardo, ma insomma poi ci ritroviamo ancora, perché dobbiamo parlare di fumetti, qualcosa di bello, bello, bellissimo, tra poco. RadioTube Social Village. Allora, fumetti, questo in realtà è un audio necessariamente di un cartone animato. Io ve lo faccio sentire, chissà se lo riconoscete subito. Eccolo qua. Mi è venuta fame con tutte queste storie di cinghiali. Tanto più che è già passato mezzogiorno. Hai parlato a proposito. Adesso per la prova seguente dovrete mangiare tutto il pranzo che vi ha preparato Manneken Pix, il famoso cuoco dei giganti. Il desco è apparecchiato laggiù. Nessun essere mortale è arrivato alla fine di uno dei suoi pasti. E voi dovrete riuscire a finirlo tutto, fino all'ultima portata. Buon appetito. Ah, finalmente, ecco una prova un pochino interessante. La lascia a me, amico, vero? Ah, sicuro, senz'altro. Quando l'appetito c'è, io mi sento come un re. Allora, quando avete sentito cinghiale, dovete aver capito, stiamo parlando di Asterix. Questo era Le 12 fatiche di Asterix. È a quasi 40 anni questo film. Ma Asterix è assolutamente di attualità. Anzi, Asterix ritorna, il nuovo Asterix arriva in Italia. Asterix e la Corsa d'Italia, che cos'è? Perché Asterix torna in Italia? Qual è oggi ancora il fascino che può esercitare questo Asterix? Vabbè, lo chiediamo subito al direttore publishing di Panini, Marco Lupoi. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno. Ho detto tutto giusto? Ho detto tutto giusto su Asterix? Hai detto tutto esattamente giusto. Allora, io ho visto già qualche immagine e l'ho trovato molto molto molto divertente. Che cos'è questo nuovo albo e questa storia italiana di Asterix? Ma Asterix, sentite anche voi l'eco, la sento solo io? No, lo sentiamo solo noi. Se non riesci a parlare, noi ti richiamiamo al volo, Però dimmi. No, sento l'eco, okay. Ma mi chiedevo se andava in onda o meno. No, noi non lo sentiamo. Perfetto. Allora, Asterix era stato chiaramente molte volte in Italia, perché lui è un personaggio gallico, ma lotta contro Giulio Cesare, quindi a Roma c'è finito tante volte. Però in tutti questi decenni di storia non aveva mai attraversato il nostro paese da nord a sud. E questo volume che è uscito giovedì, il volume 37, si chiama La Corsa d'Italia, perché descrive un po' la realtà italiana da Monza a Napoli, fino al Vesuvio. Ah, da casa mia? Partiamo proprio da casa mia, meraviglioso! Esattamente, proprio perché a Monza c'è il Gran Prix d'Italia e da lì parte questa corsa di carri. Perché l'idea parte da un'idea abbastanza italica. Le strade sono piene di buche, l'impero romano è super criticato perché non riesce a tenere dietro alle strade, chissà se le cose sono cambiate. No, ma ovviamente solo l'impero romano. Solo l'impero romano, non oggi. Allora a un certo punto i romani decidono di fare una mega gara di dighe per dimostrare che le loro strade invece sono valide. E a questa gara partecipano anche i galli. E dovrebbero però vincere i romani. Allora c'è questa lotta attraverso l'Italia, che è appunto attraverso piena di gag legate al nostro paese. Quindi è molto divertente. Allora, intanto vi dico che c'è sia in libreria che in edicola. In libreria c'è anche la versione, quella più libro, però per chi fosse curioso lo si trova sia in libreria che in edicola. Marco, ma è ancora attuale Asterix? Piace ancora? Asterix piace assolutamente. Noi siamo gli editori di Asterix da 3 anni, abbiamo tutto repubblicato, tutti e 35 volumi. Prima abbiamo fatto 36 e 37 che sono nuovi, poi abbiamo pubblicato 2 libri fuori serie, insomma abbiamo fatto l'intera produzione con un grande riscontro, segno che è un personaggio che piace ancora. Gli autori sono sempre francesi? Certo, è la quintessenza del fumetto francese, però è che piace in tutto il mondo, cioè le sue vendite in Germania sono uguali a quelle francesi. Ah. Cioè, è un'icona in tutto il mondo, veramente. Esce in contemporanea in 25 edizioni. Ho letto che ha venduto finora più di 370 milioni di copie nel mondo, tradotte in ben 111 lingue e dialetti, appunto il nuovo volume 25 certo. paesi del mondo. Qual è secondo te però il segreto di questo Asterix? Perché piace così tanto? Perché è uno sguardo alla modernità attraverso l'antichità. Cioè attraverso la visione della vita in un paese della Gallia, i vari autori che si sono avvicendati, che poi sono Goscinny e Uderzo, i creatori, e da tre volumi questi autori nuovi, Ferri e Corrad, raccontano il mondo di oggi attraverso questo sguardo deformato dell'epoca gallica. Per cui, non so, nell'ultimo volume c'era la rete e invece di essere internet c'erano i piccioni viaggiatori. Perché all'epoca potevano essere i piccioni viaggiatori che facevano questa cosa. Ma è vero che ci sono dei personaggi famosi che entrano? Assolutamente, nel senso che gli autori hanno reso omaggio a Pavarotti, a Berlusconi, alla Pellucci. L'intero volume è un'orgia di citazioni, di luoghi, di posti e di battute sull'Italia. Da Obelix che si meraviglia che il prosciutto si debba tagliare a fette, ma è così semplice metterselo in bocca e mangiarlo in uno colpo. Certo, io l'ho citato proprio qualche giorno fa in mensa, perché c'era lo stinco in mensa e ho detto, beh, questo si mangia come Obelix, no? Si prende e si mangia in un composto tutto in una volta. Cioè, l'epoca, l'abitudine di tagliare a fette il prosciutto è una cosa barbara. Beh, certo, per Obelix sì. Io sai, mi immagino che lo compreranno magari i genitori nostalgici degli Asterix di quando erano piccolini, lo potranno leggere con i ragazzi, con i bambini, mi sembra una cosa veramente molto molto molto carina. Mi sembra una bella idea. Si presta a essere letto a tutte le generazioni. Beh. Un ragazzino lo vede in un modo, un adulto in un altro, è la bellezza di un fumetto iconico così. E poi di quel tratto, di quel disegno ancora tradizionale che piace comunque anche ai bambini, anche se sono abituati a tante computer graphics di tutti i modi, i bambini sono comunque sempre molto conquistati. Sono veramente curiosa di leggermelo tutto. Grazie a Marco Lupoi, direttore publishing di Panini, per essere stato con noi. Viva Asterix, ciao Marco! Ciao a tutti. Allora, noi siamo pronti per la seconda ora del nostro RadioTube, che da RadioTube Social Village si trasforma in RadioTube Social Network. Il co-conduttore d'eccezione è arrivato in questo momento, lo vedo dall'altra parte del vetro. L'ho proprio corteggiato tantissimo, finalmente è qui con noi, non ve lo anticipo, facciamo così. Diamo la linea al giornale radio delle 17, poi la sorpresa con RadioTube Social Network.